lei Dio non volle. E fiero latino condottiero Apollion succede e non ne sa in pace e consigliere cor infanti norma la mente investigai e che la pensi al fatto piegare la fronte separarci e nullo lasciar sospetto del fallito intento che finge sempre cruda legge il se